Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Una buona serata da Anna Rita D'Ambrosio a tutti voi insieme questa sera per il racconto di questa giornata. Grazie regia ad Andrea Roccabella, in redazione a Cristian Goldoni, un saluto alla nostra e vostra Roberta Giordano. Partiamo con i titoli. Mattarella punta ad un nuovo governo entro il 15 dicembre, oggi sono iniziate le consultazioni, la prima opzione resta il reincarico a Renzi che però non sarebbe disponibile. L'ipotesi di Pisapia, pronto ad unire la sinistra fuori dal PD, parla il sindaco di Milano Beppe Sala a Radio 24. Draghi conferma il quantitative easing fino alla fine del prossimo anno, acquisti però ridotti a 60 miliardi. E poi c'è il calcio, quattro italiane impegnate in Europa League, Fiorentina e Roma, prime nel girone, in campo tra pochissimo l'Inter, match del Sassuolo invece rinviato per nebbia. E allora, cominciamo da qui, dalle notizie, dall'ultima però purtroppo, che è una notizia di cronaca che arriva dal Milanese. Due persone sono morte investite da un treno poco prima della stazione di Rocche alle porte di Milano. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di due uomini di 25 e 30 anni che si trovavano sui binari al momento dell'arrivo del treno, non sono stati ancora identificati. Sul luogo dell'investimento sono arrivate due ambulanze e un'auto medica, ma per i due non c'è stato nulla da fare. Il convoglio di Trenord è attualmente fermo e i passeggeri vengono aggiornati dal personale di bordo sugli sviluppi. Trenord comunica che sulla linea per Varese si registrano ritardi intorno ai 30 minuti. Sulla direttrice per Novara la circolazione è stata completamente interrotta. La notizia in primo piano però la sapete, è quella politica, sono le consultazioni iniziate proprio oggi, sabato, la giornata decisiva. Nessuna dichiarazione al termine della prima giornata di consultazioni al Quirinale. Il capo dello Stato Sergio Mattarella riceve per primo il presidente del Senato Pietro Grasso, colui che molti indicano potrebbe guidare un governo istituzionale per fare la legge elettorale e andare alle elezioni. Poi è la volta di quello della Camera, Laura Boldrini, infine il presidente emerito Giorgio Napolitano. Domani un altro round di consultazioni con i partiti minori, mentre sabato quelli maggiori per concludere con il PD. Già i Dem sono al centro dell'attenzione, si parla anche di un possibile incarico a Piercarlo Padoan per un governo più politico e andare al Consiglio europeo del 15 dicembre, qualora Matteo Renzi persistesse nel suo rifiuto ad un incarico bis o ad un prolungamento fino ad elezioni. La minoranza preme per arrivare alla fine della legislatura e anche a dare ad Em non piace l'accelerazione verso le urne. Per tutto però si dovrà attendere il 24 gennaio la sentenza della Corte Costituzionale sull'Italicum. Mattarella fa sapere che non si può andare al voto con due leggi sostanzialmente modificate dalla consulta e che non siano omogenee per Camera e Senato. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Nessun nuovo governo, insistono le opposizioni parlamentari. No agli inciuci, no a un Renzi bis. Le opposizioni compatte bocciano le ipotesi di larghe intese o governi di scopo e chiedono di tornare al voto. Per Forza Italia ora spetta al Partito Democratico, che ha ancora una maggioranza in Parlamento, mettere ordine e la priorità deve essere una legge elettorale omogenea per Camera e Senato che garantisca governabilità e rappresentatività. Sempre nel centrodestra a chiedere a gran voce elezioni anticipate è soprattutto la Lega Nord, che con Salvini avverte: subito alle urne o scendiamo in piazza. Al voto con l'Italicum, modificato con le indicazioni della consulta, è invece la posizione di Beppe Grillo, che non farà parte della delegazione del Movimento 5 Stelle, che sabato salirà al Colle. Per fare una legge elettorale non serve un nuovo governo, dice Di Maio. Il Parlamento la può mettere in calendario. Renzi si è dimesso, ma può restare in carica per gli affari correnti, sostiene il vicepresidente della Camera. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E in campo c'è l'ipotesi Pisapia, con l'ex sindaco di Milano pronto a unire la sinistra fuori dal Partito Democratico. A favore di questa idea c'è anche il suo successore Beppe Sala, che però in questa intervista a Radio 24 chiarisce anche le sue perplessità. L'ha intervistato Raffaella Calandra. La proposta è indubbiamente interessante perché uno spazio c'è. Non sarà facile. Pisapia ha cercato di cogliere il momento. Ora o mai più quel tipo di sinistra che sta a sinistra del PD, lui obiettivamente si riconosce potenziale guida politica almeno. Ma questo significa che quella di Pisapia potrebbe essere anche la sua idea? No, ripeto sempre che la sinistra deve stare unita. Però il posizionamento a cui fa riferimento Pisapia non è esattamente il mio posizionamento. Che cosa esattamente non è d'accordo? Ma io non so se serve qualcuno che si ponga a sinistra del PD. Prima ancora c'è la questione di quello che sarà il PD, no? Come uscirà il PD da questa situazione? Per cui io non mi porrei, ecco, a sinistra di un PD ancora tutto in divenire. Prematuro, diciamo. Prematuro, d'altro canto, sa, io faccio il sindaco, qualcun altro fa il ministro, eccetera, eccetera. In questo momento Giuliano ha la disponibilità a ascoltare, elaborare e quindi o adesso o mai più. Lei però personalmente ha incontrato anche queste diverse anche frange e anime della sinistra. Sel a Milano si è mosso bene con grande lealtà, è veramente un po' tutto uno spazio da ricostruire. L'esempio milanese può valere anche su scala nazionale. La sinistra non è detto che stando insieme vinca necessariamente, ma se non sta insieme è molto molto difficile che vinca, a meno di alleanze che poi rischiano di non funzionare. Il vero tema che troverà Pisapia è che quando riparti dalla tua credibilità ma dietro non hai una truppa, non è facile inserirti in un meccanismo che è già funzionante. Chiudiamo la pagina politica, apriamo quella economica. L'altra notizia in primo piano infatti arriva da Francoforte: confermato il quantitative easing anche se si riducono gli stimoli. La Banca Centrale Europea ha allungato di 9 mesi fino alla fine del 2017 il suo programma di acquisto di titoli, il cosiddetto QE, ma ha ridotto l'importo mensile da 80 a 60 miliardi di euro, sorprendendo i mercati finanziari. Il presidente della BCE, Mario Draghi, ha insistito però che la decisione non è il preludio della fine dello stimolo monetario in un quadro economico in cui la ripresa dell'area dell'euro si sta rafforzando ma rimane modesta e l'inflazione è tuttora molto al di sotto dell'obiettivo di avvicinarsi al 2%. La decisione di compromesso riflette probabilmente le divisioni nel Consiglio della BCE, che ha votato le misure a larghissima maggioranza, secondo Draghi, ma con l'opposizione del presidente della Bundesbank, che è a favore di una rimozione dello stimolo monetario. La BCE peraltro può aumentare di nuovo gli acquisti se la situazione dovesse peggiorare nel 2017. Ci manteniamo flessibili, ha detto Draghi, perché l'incertezza prevale ovunque, soprattutto nella politica, anche se i mercati hanno reagito meno del previsto alla Brexit, all'elezione di Donald Trump e al risultato del referendum italiano. A proposito dell'Italia, le debolezze del paese e delle sue banche, ha dichiarato il banchiere centrale, sono note da tempo e dovranno essere affrontate al più presto. Indipendentemente dall'incertezza politica, ha sottolineato anche Draghi, l'Italia dovrà continuare a fare le riforme. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. E la BCE ha dato la carica alle borse europee. Milano ha terminato le contrattazioni in progresso dell'1,64%. A Piazza Affari sono state ben richieste le azioni delle banche dopo le rassicurazioni che erano arrivate questa mattina da Bruxelles. Non temiamo una crisi bancaria in Italia, ha detto il commissario europeo agli affari economici Moscovici. Nel paese, ha aggiunto, c'è certamente una crisi politica dopo il referendum e le dimissioni di Renzi, ma nello stesso tempo c'è una continuità. Ieri l'ok alla manovra di bilancio da oltre 27 miliardi di euro, con una fiducia tecnica sollecitata dal capo dello Stato. Sul Sole 24 Ore tutte le novità, sentiamo. Pensioni, investimenti, bonus vecchi e nuovi per i lavori in casa e per le famiglie, misure di favore per le piccole imprese e poi piani ambiziosi per le infrastrutture. C'è davvero un po' di tutto nella legge di bilancio che è stata approvata definitivamente e in tempi record soltanto ieri. E c'è anche poi un robusto lavoro di attuazione che dovrà tradurre tutto questo in realtà, a cominciare dall'APE, l'anticipo pensionistico, oppure dalle infrastrutture, che trovano sì un fondo dedicato da 8 miliardi e mezzo da usare in 3 anni, ma che restano appesi a futuri decreti del futuro Presidente del Consiglio, chiunque egli sia. Appesa poi alla valutazione di Bruxelles, inoltre resta tutta la manovra, che ora vale 27 miliardi e ipotizza un indebitamento netto nel prossimo anno del 2,3%. Bruxelles parlerà a marzo. In attesa che il quadro politico si definisca, tuttavia le disposizioni della manovra si preparano a entrare in vigore e da domani il Sole 24 Ore avvia una serie di guide in 8 puntate per illustrare contenuti e dettagli della legge. Partiamo dalle pensioni, che sono il tema probabilmente più sentito, si prosegue sabato e poi per tutta la settimana successiva, affrontando via via le detrazioni per i lavori in casa, incentivi per le imprese, i maxi, gli iperammortamenti, le misure per alleggerire il carico fiscale previdenziale sul lavoro. Mauro Meazza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Torniamo alla cronaca. Un turista italiano è stato ucciso a Rio de Janeiro dopo essere entrato per sbaglio in una favela nel centro della metropoli carioca. In base alle prime informazioni, l'uomo è stato colpito alla testa da un proiettile. La vittima era in compagnia di un amico, anche lui italiano, che sarebbe riuscito a fuggire illeso. Restiamo all'estero. Le attività delle milizie jihadiste dello Stato Islamico e la guerra in Siria costituiscono per la Gran Bretagna un rischio di attentati senza precedenti, lo ha dichiarato oggi il responsabile dei servizi segreti britannici. Il livello di minaccia è senza precedenti. Dal giugno 2013 i servizi segreti hanno sventato 12 piani terroristici nel Regno Unito, ha spiegato il capo dell'MI6, Alexander Younger, in un raro intervento pubblico. Anche in questo momento ha proseguito la struttura per la pianificazione degli attacchi all'estero dell'ISIS, pur di fronte a una minaccia militare, elabora piani per colpire la Gran Bretagna e i nostri alleati senza dover lasciare il territorio siriano. Younger ha poi attaccato Mosca e le forze di Damasco. In Siria stanno cercando di fare un deserto e di chiamarlo pace, ha detto il capo degli 007 di Sua Maestà, citando la celebre frase di Tacito. L'amministrazione Putin, anche se non citata esplicitamente, è stata poi il bersaglio sul dossier dei cyberattacchi, che per Younger si inserisce in un piano di propaganda e sovversione che rappresenta, a suo dire, una minaccia fondamentale per le democrazie europee. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. E siamo allo sport. L'Europa League, oggi si chiudono i gironi, 4 italiane in campo. Inter e Sassuolo sono già non qualificate ai sedicesimi, la Fiorentina e la Roma invece sono passate, la Fiorentina battendo il Karabag in trasferta per 2-1 e chiudendo prima nel girone. Prima nel girone anche la Roma, la partita si è da poco conclusa, Astra-Roma, quindi in trasferta, è finita 0-0. Sassuolo-Genk invece è stata rinviata per nebbia. Da pochi minuti sono entrati in campo l'Inter e Sparta-Praga, però ripetiamo, l'Inter non è passata ai sedicesimi, questo è certo. Noi partiamo tra pochissimo con gli approfondimenti dopo avervi fornito un quadro della situazione. Vi ricordo 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp. Noi torniamo tra pochissimo. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le 21:16, parliamo della crisi di governo. Mattarella punta ad un nuovo esecutivo entro il 15 dicembre. La prima opzione resta il reincarico a Renzi, ma non sembra disponibile Renzi ad averlo. Draghi conferma il quantitative easing fino alla fine del prossimo anno, acquisti però ridotti a 60 miliardi. Poi c'è la pagina di cronaca. A Rio de Janeiro un italiano finito per errore in una favela è stato ucciso da un proiettile vagante, un altro è riuscito a fuggire. E poi la notizia che arriva dalle porte di Milano, dove due uomini non ancora identificati sono stati investiti ed uccisi da un treno a Roma. E allora noi approfondiamo in questa seconda parte la notizia del giorno, ovvero l'avvio delle consultazioni da parte del capo dello Stato. Il primo ospite, lo ringrazio, è già in collegamento con noi, è Dino Pesole del Sole 24 Ore. Dino. Buonasera, buonasera a voi. Eccomi. Dino, allora forse probabilmente Mattarella non si aspettava di dover fare così presto le consultazioni. Oggi sono iniziate, insomma lui conta di chiudere presto. Secondo te è un'ipotesi possibile? Beh, il tentativo è certamente quello di fare presto, fermo restando che comunque c'è un calendario che prevede fino a sabato consultazioni fittissime e non è del tutto escluso che dopo una giornata di riflessione domenicale non ci sia un secondo giro. Ma sostanzialmente il fare presto significa cercare, da quel che si capisce, di individuare se c'è effettivamente la possibilità di dare un reincarico in prima battuta, e credo che sarà decisivo da questo punto di vista l'incontro di sabato sera con la delegazione del PD, perché è prima nel PD che vanno chiarite le varie opzioni allo studio. Dopodiché si procederà, come spesso accade in queste circostanze, per approssimazioni successive, cioè caduta la prima opzione, immagino che il Presidente proverà a sondare anche le altre forze politiche per verificare se c'è la disponibilità a un governo istituzionale, chiamiamolo così, a tempo, che abbia il mandato prevalente di fare la nuova riforma elettorale e poi portare il Paese alle urne, immagino, in primavera. Ecco Dino, ogni volta che Renzi ha visto Mattarella hanno parlato tanto, cioè anche il giorno delle dimissioni, insomma, c'è stata una grande discussione, quindi questo forse è un segnale che il reincarico è l'ipotesi più plausibile. È probabile, se non che appunto poi bisogna un attimo capire quali saranno i limiti di questo reincarico, perché probabilmente Renzi potrebbe accettare, a fronte di un mandato che sia un mandato relativamente al compimento di alcune cose. Ad esempio, ricordo che tra le urgenze assolute che richiedono che ci sia un governo nella pienezza delle sue funzioni, non c'è solo la legge elettorale, c'è da risolvere la questione del Monte dei Paschi, che richiede probabilmente un decreto. Certo, le banche, certo. Mettere in sicurezza le banche, e poi c'è da gestire la partita con Bruxelles, perché è sospesa la partita con Bruxelles, cioè noi avremo un giudizio europeo sui conti pubblici probabilmente a marzo, ma è chiaro che il dossier va istruito già all'inizio dell'anno, quindi ci sono delle urgenze che fanno ritenere che comunque per il Presidente della Repubblica non si possa andare a elezioni immediate, anche perché sarebbe una follia obiettivamente andare a votare. Noi abbiamo ospiti, sono in attesa, tra poco li presenterò, due costituzionalisti con i quali appunto affronteremo anche questo tema della Camera e del Senato, con due formule completamente diverse, è impossibile andare a votare, diciamo, in questo modo. Dino, volevo farti un'ultima domanda. Adesso praticamente ci si aspettava che questa sera Mattarella dicesse qualcosa dopo il primo giorno di consultazioni, e invece ha scelto di non parlare. Secondo te è una scelta che ripeterà ancora, cioè parlerà forse solo sabato? Che cosa pensi che succeda? Io penso che parlerà alla fine del giro delle consultazioni. Anche il personaggio, la sua il suo approccio molto istituzionale. Poi Mattarella è una persona molto ponderata, lui sta esaminando a fondo tutta la questione, fa ritenere questo momento obiettivamente, senza aver ascoltato prima le delegazioni dei partiti, non avrebbe molto da dire, però probabilmente sabato sera qualcosa dirà, se non altro per invitare tutti ad attendere quantomeno 24 ore, poi trarrà le conclusioni del suo giro e vediamo tra domenica e lunedì cosa accadrà. Vediamo, grazie a Dino Pesole del Sole 24 Ore, lo avevo anticipato, noi abbiamo e li ringraziamo due costituzionalisti in collegamento con noi. Massimo Villone, ex senatore dei DS per il No, e Giovanni Guzzetta, che ricorderete, padre dei tre quesiti referendari del 2009, quelli abrogativi del Porcellum, non si raggiunse il quorum, invece per il Sì. Buonasera ad entrambi. Buonasera. Allora, io direi partiamo dalla giornata di oggi. Come dicevamo con Dino, in realtà oggi Mattarella non ha nemmeno parlato, come da tradizione il Presidente del Senato, il Presidente della Camera e anche Napolitano si è limitato a dire, Napolitano il cui ruolo comunque è di peso, in questo momento si è limitato a dire buon lavoro. Insomma, dobbiamo ancora aspettare. Però si va verso un reincarico e diciamo che però i partiti di opposizione sono d'accordo a proseguire? No, perché dicono bisogna andare al voto. Ma come si fa ad andare al voto in questa situazione? Io partirei da Massimo Villone. Ma intanto certamente bisogna andare a rivedere profondamente la legge elettorale, perché come stanno le cose in questo momento è davvero difficile pensare che si possa votare senza una rivisitazione completa del meccanismo elettorale, però qui vediamo una delle difficoltà che sono in campo, perché il reincarico che si dice possa essere probabile sconta in questo un problema serio, perché noi avremmo il reincarico un Presidente del Consiglio che ha fatto una sua scommessa proprio su questo punto, ha messo la fiducia sull'Italicum, come tutti ricordiamo, e che adesso che fa? Deve fare un'inversione a un, deve cancellare tutto quello che ha fatto, deve smentire se stesso? Io credo che ci sia un problema non da poco in questo, cioè il reincarico sconta la possibilità di avere in carica via Palazzo Chigi lo stesso governo con gli stessi equilibri politici in Parlamento che hanno prodotto come dire, il disastro del 4 dicembre, quindi è una situazione Gussetta delicata. Non concorderà con questa analisi? No, in realtà concordo, ma per ragioni diverse. A me sembra difficile, così per gli elementi che abbiamo noi che siamo fuori dai palazzi, immaginare che Renzi, dopo quello che la dichiarazione che ha fatto la sera del 4, sia disposto a un reincarico peraltro al buio. Cioè, qui noi dimentichiamo che il problema non è solo fare una legge elettorale, ma il problema è quale legge elettorale, perché le forze politiche un po' nicchiano su questo, no? E dicono al voto con qualunque legge elettorale. Tutti noi sappiamo benissimo che per le forze politiche quale sia la legge elettorale è fondamentale, perché a seconda della legge elettorale si determinano risultati diversi. Quindi c'è molta, secondo me, c'è molta tattica in questo momento, e mi sembra difficile che così in due giorni Renzi si renda disponibile a, come dire, a riprendere la responsabilità al buio senza una garanzia. Allora, o c'è un accordo su una legge elettorale, cosa che non mi pare proprio in questo momento, oppure la vedo complicata un reincarico. Allora, i 5 Stelle dicono di aspettare la sentenza della consulta sull'Italia come quella del 24 gennaio e poi di votare anche al Senato con quello che verrà fuori da questa sentenza. È un'ipotesi percorribile? Prima Villone e poi Guzzetta. Ma bisogna capire esattamente che cosa pensano i 5 Stelle e la Corte Costituzionale possa dire, perché qui le letture sono possibili, sono certamente diverse. Poi c'è una residua difficoltà che io vedo, e cioè che la legge elettorale Camera potrebbe comunque non essere sovrapponibile al Senato per il punto della base regionale per il Senato. Il Senato si elegge su base regionale, dice la Costituzione vigente e non più modificata, diciamo, dopo il 4 dicembre. Questo punto rimane, quindi io non so, per esempio, se dovesse rimanere un qualsiasi premio di maggioranza, come si potrebbe spalmare allo stesso modo su Camera e Senato. Probabilmente sarebbe impossibile, sarebbe a causa di diversità di equilibri politici, a meno che non si pensi che la Corte Costituzionale cancelli del tutto il premio di maggioranza, ma questa è un'ipotesi. Ecco, Guzzetta, che cosa si aspetta dalla pronuncia del 24 gennaio? Ma questo è molto difficile da dire. Concordo anch'io sul fatto che la Corte Costituzionale sicuramente si porrà il problema degli effetti, come ha sempre fatto, degli effetti delle proprie pronuncia, quale che sia, sul sistema. La Corte Costituzionale, diciamo, ha sempre avuto la linea di dire la mia sentenza deve comunque garantire un sistema di risulta che sia in grado di far fare le elezioni il prima possibile. A me la cosa drammatica, diciamo, più di questo, mi sembra immaginare che ci sia un Parlamento che fa melina per un mese e mezzo per poi lasciar prendere una decisione così fondamentale a un organo giurisdizionale. Mi sembrerebbe un fallimento radicale della, diciamo, della politica, del ceto politico, insomma, stare a bagnomaria fino al 24 gennaio o qualche giorno dopo, perché poi la sentenza non è detto che arrivi il 24 gennaio, senza far nulla e senza fare una proposta o prendere un'iniziativa. Questo credo che sia la cosa più preoccupante, più drammatica, e forse anche la preoccupazione principale del Presidente della Repubblica. Insomma, farsi fare le leggi elettorali dalla Corte Costituzionale non è un buon segno. Certo. Adesso battono le agenzie che la Lega anticipa a domani le consultazioni e non ci sarà Salvini. Insomma, le opposizioni però vogliono andare a votare, appunto, anche senza spiegare poi come, con quale sistema. Invece vorrei salutarvi sul ruolo di Renzi. Abbiamo detto è difficile che possa accettare un reincarico. Villone, lei che cosa si aspetta? Ma guardi, Renzi è un Presidente del Consiglio che ha fatto errori strategici fondamentali, ha condotto il Paese a sbattere su un tema delicatissimo come la Costituzione, ha sbagliato, e francamente io credo che in nessun Paese serio si penserebbe alla possibilità che rimanga a gestire il potere a Palazzo Chigi. Come questo è un Parlamento che ha sbagliato insieme a Renzi, non dimentichiamo pure che Renzi sì, ha fatto i suoi errori, ma il Parlamento li ha sostenuti e li ha tradotti in legge. Quindi questa è una condizione di istituzioni totalmente scollate in questo momento rispetto al Paese. Ha ragione Guzzetta, non è pensabile che questa situazione continui così in un galleggiamento a tempo indeterminato. Bisogna uscirne per necessità del Paese, non per l'interesse di questa o quella forza politica. Nel Paese che uno vorrebbe, ovviamente le forze politiche si assumerebbero le proprie responsabilità e trovano un'intesa su una proposta diciamo accettabile di legge elettorale. E in questo momento non sembrano esserci le condizioni, ma la risposta secondo me non è che tutto continui come prima galleggiando, certo, perché tanto qualcosa si deve fare, questo no. Certo, io sono contenta anche di vedere che insomma alla fine è finita questa battaglia elettorale, chiamiamola battaglia perché è stata una campagna elettorale anche lunga e abbastanza violenta, poi alla fine voi costituzionalisti concordate comunque, perlomeno in questa fase, anche se in campagna avete avuto dei compiti diversi e avete sostenuto dei fronti diversi. Guzzetta, quindi Renzi non ha alcuna convenienza ad accettare, chiudiamo così. Guardi, io penso che ciascuno può dare il giudizio di Renzi che ritiene più opportuno e quindi sono d'accordo con Villone, si può dare anche un giudizio molto negativo dal suo punto di vista. Quello che è certo è che Renzi non mi pare che sia un politico che agisce senza una strategia, magari la strategia è sbagliata, però diciamo un'idea in testa ce l'ha, giusta o sbagliata che sia. In questo momento un reincarico mi pare che non si possa iscrivere in nessun tipo di strategia che sarebbe utile dal punto di vista di Renzi. Se lo accetterà vuol dire che ha fatto una riflessione e ha una strategia che noi non conosciamo. Certo, staremo a vedere. Grazie a Massimo Villone, grazie a Giovanni Guzzetta. Grazie. Noi grazie, torniamo, arrivederci. Noi torniamo ancora poi a parlare, parleremo anche di Bruxelles, che cosa ha detto oggi sempre in relazione alla crisi di governo, poi passeremo alla cronaca, ma tutto questo tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Le 21, quasi e 36 minuti, ancora una buona serata da Anna Rita D'Ambrosio. Crisi, iniziate le consultazioni, Mattarella punta a chiudere entro il 15 dicembre. L'altra notizia in primo piano arriva da Francoforte, dove Draghi ha confermato il quantitative easing fino alla fine del prossimo anno, acquisti però ridotti a 60 miliardi. E poi c'è la cronaca, Rio de Janeiro, un italiano finito per errore in una favela che è stato ucciso, un altro è riuscito a fuggire, due uomini investiti ed uccisi da un treno a Rho alle porte di Milano. Noi come detto restiamo ancora a parlare della crisi di governo, perché come avete sentito dalle parole di Dino Pesole non c'è solo la partita della legge elettorale ma anche quella delle banche, MPS in particolare. Questa mattina però da Bruxelles, proprio sul fronte delle banche, sono arrivate delle rassicurazioni e c'è ospite con noi Sergio Nava che ci spiega da chi sono arrivate e in che direzione. Sergio. Sì, dare rassicurazioni è stato il commissario europeo all'economia Moscovici, uno di diciamo dei rappresentanti dell'esecutivo Juncker più morbidi verso l'Italia, non fa parte quindi dell'ala rigorista rappresentata da Dombrovskis, per esempio il vicepresidente della commissione. Moscovici, che in un'intervista televisiva ha detto in Italia innanzitutto ha detto dal punto di vista politico in Italia c'è una crisi ma c'è continuità, e sulle banche ha ribadito un po' quello che ha detto già lunedì all'Eurogruppo: i problemi delle banche italiane sono gli stessi di una settimana fa, non si sono aggravati, noi non temiamo crisi bancarie. Così Moscovici, che ha indirettamente poi commentato anche quello che è stato il taglio dell'outlook da parte di Moody's e quindi le possibili preoccupazioni dell'ambiente economico-finanziario. Da aggiungere anche la dichiarazione qualche ora più tardi da Bratislava del premier slovacco Fico, che ricordiamo la Slovacchia è attualmente presente in turno dell'Unione Europea, ed è stato molto duro Fico, perché ha detto quello di Renzi è stato un grave errore politico, legare la propria permanenza in carica a una vittoria nel sì, fare un ricatto su un tema di politica interna che quasi nessuno capisce è il peggiore errore politico che si possa commettere. Fico, che tra l'altro si è detto molto preoccupato da un possibile referendum sull'euro, così come chiesto dal Movimento 5 Stelle, quindi teme Fico una governo a 5 Stelle. Ricordiamo anche che la Slovacchia, sì, il governo slovacco è diciamo dell'area socialista, ma è politicamente un po' distante da noi perché fa parte del gruppo dei paesi dell'est di Visegrad e non è quindi... non vede di buon occhio il nostro governo. Ecco, appunto, quelli mi sembrano contrari, però mi sembra che tutto sommato da Bruxelles adesso stanno alla finestra, stanno guardando le consultazioni. Stanno a guardare e soprattutto, cioè a dire, si sono distanziati subito. Hanno detto questo non era un referendum sull'Europa, questo hanno scaricato un po' il barile perché lo è stato forse anche, tra l'altro, molto sotto traccia un po' un referendum su certe posizioni di Renzi, che anche qui un po' ambigue perché Renzi ha sia attaccato l'Europa e un certo tipo di politica europea, sia ha portato a una bandiera europea, la bandiera della crescita. Quindi comunque l'Europa è entrata in qualche modo nella politica di Renzi e nel referendum. Però quello che ha fatto Bruxelles, con i guai che già si ritrova, con le elezioni olandesi, francesi e tedesche a breve, ha detto beh, non ci carichiamo anche i problemi politici italiani, noi qui non c'entriamo. Grazie a Sergio Nava. Chiudiamo con lui questa ampia pagina dedicata alla crisi di governo e apriamo la pagina di cronaca. Apriamo la pagina di cronaca con la notizia che avete sentito nei nostri GR spesso in questi giorni, la storia che ha preoccupato non poco delle due studentesse di Milano uccise dalla meningite in tempi diversi. Una vicenda sulla quale ieri ci sono stati degli approfondimenti. Si è parlato delle due studentesse infettate dallo stesso batterio. Noi ne parliamo con la nostra Raffaella Calandra, che ci aggiorna un po', ci fa il quadro della cronaca. E poi abbiamo un ospite che intanto ringrazio, che è già in collegamento con noi, Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive, Parassitarie e Immunomediate dell'Istituto Superiore di Sanità. Buonasera. Buonasera. Allora, con Raffaella. Buonasera, Raffaella. Ciao, Marita. Ricapitoliamo un attimo la vicenda della quale peraltro tu ti sei occupata già in questi giorni. Allora, da domani, come hai ricordato, partiranno queste vaccinazioni. Sono 140 per ora quelle decise, domani è un primo gruppo e poi entro Natale comunque tutti e 140, che sono studenti e professori che ruotano intorno al laboratorio di chimica dell'università statale dove studiavano e dove lavoravano le due studentesse morte nel giro di quattro mesi. Quindi domani partiranno questa prima fase, diciamo, dell'operazione di profilassi nei confronti delle persone che sono state più a contatto con le due studentesse. Dopodiché, quello che ieri è emerso, dopo che i risultati appunto hanno stabilito che c'è la grande possibilità, anche se non la certezza, che ci sia un unico, diciamo, un'unica persona che abbia contagiato le due studentesse, si valuterà se queste vaccinazioni debbano essere estese ad ancora più persone, fino a un massimo di 500 persone. Queste sono le cifre di cui si parla in queste ore, però diciamo è una decisione che verrà presa nelle prossime ore e tutti comunque vogliono anche mandare un segnale di rassicurazione. Non c'è alcuna emergenza, ma si tratta di provvedimenti presi per, diciamo, per precauzione, per cercare di evitare che si allarghi questo contagio. Era partita la caccia a questo portatore sano? Esatto, un portatore sano, forse un professore, forse uno studente. Dall'altra parte si fa notare come anche il 15% della popolazione risulti portatrice sana di questo batterio. È stato però evidenziato che è uno stesso ceppo, ma è anche un ceppo molto aggressivo, quindi ci sono degli elementi, diciamo, da tenere insieme, che forse appunto anche per questo hanno spinto le autorità sanitarie ad un provvedimento di profilassi che di sicuro è forte, diciamo, non soltanto quello dei antibiotici, ma arrivare fino ad una vaccinazione per 140 e poi eventualmente 500 persone, anche perché immaginiamo tutte le persone, certo, che ruotano intorno ad un ambiente universitario. Raffaella, grazie a Raffaella. Grazie. Allora, Giovanni Rezza, un provvedimento importante, 140 vaccinazioni a partire da domani, come dicevamo forse anche 500, però non c'è un'emergenza, non c'è un allarme, questo vogliamo chiarirlo? Ma no, non c'è un allarme, né è detto che ci sia un portatore cronico. I due ceppi che sono stati isolati dalle due ragazze, al meglio dei test che è stato possibile fare, perché la seconda ragazza è arrivata in condizioni veramente critiche, purtroppo in ospedale, quindi anche il campione ne ha risentito, sono dei ceppi compatibili l'uno con l'altro, quindi probabilmente si tratta dello stesso. Però non è detto che le due ragazze siano state infettate da una stessa persona. Questi meningococchi sono dei batteri che circolano nella popolazione, e che infettano diverse persone e dopo purtroppo una ogni tanto ammala e ammala anche gravemente. Quindi qual è il punto? Probabilmente c'è stata una certa circolazione, magari in un contesto, in un ambiente che può essere anche relativamente ristretto, sono stati sottoposti a profilassi i contatti stretti, questo ha evitato che si determinasse l'occorrenza di casi secondari. I casi secondari sono quei casi che, di malattia che intervengono, che occorrono in persone che sono state a contatto con il malato. Non ne abbiamo avuti perché è stata fatta una profilassi antibiotica, però evidentemente questo ceppo ha continuato un po' a circolare e questo è il motivo per cui, oltre alla profilassi antibiotica, stavolta si fa anche, si propone anche una vaccinazione. Una vaccinazione, abbiamo sentito per 140. Benissimo. Ma cioè, dottor Rezza, è vero che gli adulti sono più a rischio? Perché i bambini sono vaccinati già, no? Ecco, sono più a rischio, diciamo, soprattutto gli adolescenti e i giovani adulti. Perché? Perché i bambini dalla seconda metà degli anni 2000 vengono vaccinati a un anno di età, a 13 mesi circa. Quindi per un certo numero di anni almeno sono protetti, dopo dovrebbero fare un richiamo, sarebbe bene fare un richiamo nell'adolescenza. E invece i giovani adulti non sono stati vaccinati perché quando loro erano piccoli ancora non c'era questo vaccino, non era stata ancora introdotta la vaccinazione in Italia. Per cui sono più a rischio proprio perché non vaccinati e perché comunque sia frequentano ambienti spesso affollati, no? Pensiamo agli adolescenti che vanno a scuola, pensiamo agli studenti universitari, pensiamo oltre a frequentare scuole, università, frequentano dopo magari anche bar, discoteche, luoghi di ritrovo. Certo, no? Luoghi dove quindi c'è tanta gente. Il batterio circola più velocemente questa popolazione. In questo caso purtroppo sono verificati due casi gravi e questa è una cosa terribile, però diciamo che sembra una circolazione essere abbastanza circoscritta, abbastanza limitata. Ristretta. Quindi le faccio un'ultima domanda, dottoressa. Basteranno probabilmente questi 140? Basteranno probabilmente questi 140? Non si ricorrerà ai 500? Beh, insomma, che siano 140 o 500, dopo sarà l'ASL con la regione a prendere questa decisione sulla base di ciò che riterrà più opportuno. Un numero di vaccinazioni comunque sia abbastanza limitato, no? Quella che occorre, perché se voi pensate che in Toscana abbiamo una situazione di eccesso di casi che continua a partire dall'inizio del 2015, lì si sono vaccinate più di 700.000 persone, perché chiaramente la circolazione del meningococco però aveva preso un'area molto più vasta. In questo caso, se la circolazione si limita, diciamo, ad un contesto abbastanza ristretto, che siano 500, che siano 150, le vaccinazioni, quello che si deciderà verrà fatto certamente su base razionale, comunque si tratta di un numero di vaccinazioni abbastanza ristretto. Grazie per le rassicurazioni che ci ha fornito a Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità. Noi ci fermiamo, ci riaggiorniamo sulle strade e torniamo tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. 21:48 minuti per la precisione. Crisi di governo al via oggi le consultazioni con Grasso, Boldrini e Napolitano. Mattarella conta di fare l'esecutivo, di risolvere questa situazione entro il 15 dicembre. E poi Draghi ha confermato il quantitative easing fino alla fine del prossimo anno, acquisti però ridotti a 60 miliardi. Due notizie di cronaca a dominare oggi: l'uccisione di un italiano a Rio de Janeiro, finito per errore in una favela, un altro è riuscito a fuggire, e poi due uomini investiti ed uccisi, due uomini non ancora identificati, uccisi da un treno a Rho alle porte di Milano. E Questa è un'altra delle notizie in primo piano oggi, il grande successo della Prima della Scala di ieri. Io ringrazio Marta Cagnola per essere qui con me. Ciao Narita. Questa sera, Marta, allora, ti è piaciuta? L'hai detto anche ieri. Sì, noi ci siamo viste ieri sera in redazione, non appena io sono tornata molto entusiasta dalla Scala, sulla scia di questi 13 o 14 minuti di applausi. Poi c'è un po' di polemica per chi prende il, per chi cronometra gli applausi, sono 13 o 14, insomma comunque tanti. Vendicato Puccini, perché nel 1904, quando debuttò, quest'opera fu un clamoroso flop. E devo dire che è stato vendicato anche con gli ascolti televisivi. È stata una bella sorpresa. Sì, è stata una bella sorpresa, perché allora già da qualche anno la Rai trasmetteva in diretta la Prima alla Scala, ma lo faceva su Rai 5, quindi insomma una rete free, quindi visibile a tutti, però meno popolare ovviamente di Rai 1. Allora quest'anno è stato deciso di fare davvero il vero servizio pubblico, di trasmetterla in diretta su Rai 1, dicendo chi se ne frega degli ascolti. E invece è andata molto molto bene, perché praticamente ha fatto 2,6 milioni di telespettatori, cioè il 13,48%. Il picco poco dopo le 21, verso la fine dell'opera, 3 milioni e mezzo di spettatori, insomma. Si aspettava il finale, che come si sa non è un bel finale, non finisce bene la Madama Butterfly. Però insomma devo dire, anche se è stata, come tu spiegavi ieri, una prima senza politici, è stata comunque forse più di, non lo so, forse la musica è stata più protagonista? Forse possiamo dire questo? Sì, devo dirti che c'era questo clima un po' sospeso, per cui non c'erano... qualcuno l'ha definita le istituzioni romane, si può dire così, insomma non c'erano i ministri, non c'era il Presidente della Repubblica, c'era il sindaco Beppe Sala, c'era il Presidente della Regione Roberto Maroni, e quindi c'era questa formazione singolare nel palco reale, perché c'erano Sala, Maroni, il prefetto Marangoni e i rappresentanti dei comuni colpiti dal sisma, dal che sono stati, sì, che tu hai anche ascoltato peraltro, sì, hai anche sì, intervistato. È stato molto bello incontrarli, perché era proprio il segnale della vicinanza di Milano a queste zone. Ecco, devo dire che Milano si è mostrata veramente in grande splendore, in grande slancio, entusiasmo, con tutti insomma con la voglia di far tornare Milano un po' il traino del paese. Marto, ha sentito quindi una scommessa vinta per la Rai, Campo dall'Orto era tutto entusiasta, ma Beh, probabilmente certo. Si ripeterà l'esperimento. Sì, guarda, allora, in realtà il primo esperimento fu nel 1976, l'Otello, diretto da Carlo Schleiber per la regia di Franco Zeffirelli, e poi ci fu un caso clamoroso, la famosa Rai dei professori, quella di Enzo Siciliano, che trasmise in prima serata su Rai 1, al posto del telegiornale delle 20, il Macbeth nel 1997. Io oggi, per curiosità, siccome mi diverto molto, sono andata a spulciarmi un po' di critiche dell'epoca. Andò molto bene, dissero: ah, sarà l'inizio di una nuova via. Non lo fu, non lo fu, ma adesso davvero speriamo che insomma, c'è un po' di voglia di qualità, probabilmente. Speriamo che sia così. Era molto bella, anche in TV. Staremo a vedere, Marta, però io, visto che ti ho catturato, devo catturarti anche su un altro argomento che è comunque legato ai temi dei quali ti occupi. È un compleanno. Accidenti. È domani, peraltro io sono Sagittario, quindi insomma se si può arrivare a 100 anni come Kirk Douglas va benissimo. Lui 100. E arrivare anche come lui, no? Perché ci è arrivato splendidamente. Sì, tra l'altro, allora, la sua vita è forse ancora più emozionante dei film che ha interpretato. Lui è nato 100 anni fa, il 9 dicembre del 1916, quindi domani compirà 100 anni, nato da una famiglia di ebrei bielorussi emigrati a New York, ad Amsterdam, che è nello stato di New York. Ha servito la patria durante la Seconda Guerra Mondiale, poi ha debuttato in teatro, il primo film a 30 anni. E quello è stato solo il primo dei 75 straordinari film in cui è stato protagonista, un grandissimo protagonista della grande Hollywood. 3 candidature all'Oscar, nessun Oscar, invece è riuscito al figlio Michael, un Oscar alla carriera per il suo grande contributo artistico, creativo, ma anche umano. E nella sua vita gli sono successe di tutto. notte, insomma, ha avuto un grave incidente aereo, ha perso un figlio, la malattia di Michael, l'altro figlio, eppure sempre con grandissima forza anche dopo l'ictus che lo colpì 20 anni fa. Ho letto una frase bellissima che lui ha detto: i miei figli sono nati senza il mio grande vantaggio nella vita, essere nato povero. Una frase bellissima, cioè veramente di un uomo, di un grande... E poi dice anche, quando gli chiedono il segreto per una vita lunga, lui dice: non lo so, però tutte le mattine mia moglie mi dice alza il culo e lo fa scendere dal letto. E secondo me è bellissimo questo. Beh sì, certo, molto molto concreta. Questa è concreta. Molto molto concreta. Marta, grazie per averci parlato, grazie della Scala, per questo compleanno. Auguri a Kirk Douglas e ai suoi 100 anni, davvero tanti. Noi siamo ai saluti. Io ringrazio ancora una volta Andrea Roccabella in regia e Christian Goldoni in redazione. Ringrazio voi per essere stati con noi questa sera. Ci ritroviamo tra pochissimo per gli aggiornamenti di GR24. Una buona serata da Anna Rita D'Ambrosio.